Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovato Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, dopo settimane di restrizioni tra corse sotto casa, urla dalle finestre e maratone casalinghe o nel garage, come hai fatto tu, insomma, Ivana, da domani, lunedì 4 maggio, si potrà correre, passeggiare, andare in bici senza limitazione di distanza, se non quella, insomma, interpersonale, che dovrà essere di un metro per l'attività motoria e di due metri per quella sportiva. E si dovrà quindi correre scegliendo ore e luoghi meno affollati per evitare i ben noti assembramenti. La mascherina non è menzionata, ma è, a mio avviso, quantomeno da portare con sé e ad utilizzare quando incroceremo qualcuno e siamo vicino ad altre persone. Infine, insomma, alcune ordinanze regionali o comunali stanno correggendo un po' il tiro con limitazioni più o meno stringenti, ma diciamo che da domani nella maggior parte del territorio italiano valgono le regole sopra elencate. Detto questo, veniamo a noi, che riprenderemo a correre appunto domani, anche grazie ai consigli in modalità casalinga del coach Fabio Vedana. Bentornato. Ciao a tutti. E della nutrizionista Francesca De Rio, ben ritrovata. Ciao a tutti, buongiorno. Come stai, Francesca? Bene, grazie. Tu? Hai consumato il tapirulan, mi hanno detto. Sì, lo sto per bruciare, nel senso che non lo voglio più vedere per qualche anno. Lo porti in discarica. Quindi domani, Francesca, andrai a correre. Quanto farai? Allora, domani andrò a correre, credo però di andare molto presto perché ho un po' paura di trovare la folla, sono un po' spaventata da questo pronti via, quindi credo che andrò veramente presto, la mattina alle 6:30, che tra l'altro a me piace molto in questo periodo, e andrò molto molto piano, nel senso che immagino, poi Fabio ce lo dirà, però immagino che sia molto diverso correre, cioè far ripassare, diciamo, dal tapirulan all'asfalto, quindi insomma è tutto come se fosse un inizio nuovo. Infatti, Fabio, ripartiamo un po' da te. Tu innanzitutto come stai? Ah, meno male, sai che mi ero un po' risentito perché hai chiesto a Francesca come stesse, a me niente, cioè come se non ci fosse. Vabbè, sì, me lo scrivo questo, non siamo più amici. Ivana invece ero sicuro che me lo chiedesse. Però non ci hai detto come, insomma. Sto bene, ah, ecco. Ho fatto questa reclusione forzata che però alla fine non è stata così deleteria, anche perché mi ritengo fortunato. Io ho una cascina vicino al bosco in città, quindi ho il giardino, ho il cortile, ho la piscina, i cani, cioè praticamente io sono in un regime 41 bis, ma diciamo di lusso, ecco, a 5 stelle, e non c'è nessuna indicazione politica, è a 5 stelle. Sei in un lodge. I tuoi atleti riprenderanno l'attività domani o sono già all'opera? No, allora, i miei atleti elite, quelli considerati dal decreto come atleti professionisti, non si sono mai fermati di allenarsi, anzi, noi abbiamo mantenuto veramente un numero di ore. Se normalmente abbiamo una routine da 28-30 ore, siamo scesi a 24-25, non molto meno. Il problema è stato quando hanno chiuso anche l'unica piscina aperta gestita dalla FINA a Milano, che era quella di Mecenate, e quindi ci siamo ingegnati attraverso il nuoto frenato, abbiamo preso delle vasche da fan, quelle gonfiabili, proprio gonfiabili, ma quelle che da esterno, quelle che si mettono sopra il terreno, e da lì facciamo il nuoto frenato, che devo dirti dà anche notevole soddisfazione. Poi, nuoto frenato nel senso che l'atleta è legato con un elastico, praticamente nuota sul posto. Nuota sul posto ed è legato con un elastico che è fissato all'esterno ed è fissato sull'atleta alle anche, e quindi fa a tutti gli effetti un nuoto molto simile alla situazione quasi reale. E questo ci ha aiutato molto. Poi naturalmente il ciclosimulatore, il tapirulan e le corsette nei 200 metri ti hanno permesso di mantenere il volume. E poi tutta la parte di preparazione atletica che abbiamo implementato notevolmente. E quindi devo dirti che i miei atleti, quelli appunto di categoria nazionale o internazionale, si sono allenati molto, e addirittura alcuni, noi abbiamo parametrato spesso i loro dati fisiologici attraverso dei test che somministravamo regolarmente a loro, e nei parametri di resistenza di medio e lungo periodo hanno avuto addirittura un'evoluzione positiva di questi parametri. Questo potrebbe essere un argomento di studio. di approfondimento, perché è interessante questa cosa. Secondo me in futuro, quando andremo a rianalizzare questo periodo di lockdown, di quarantena, tutti questi dati che abbiamo raccolto potrebbero essere lo spunto anche per nuove periodizzazioni, nuove metodologie, nuove organizzazioni dell'allenamento, perché questa cosa è interessante. In questo momento non so darti una motivazione perché, però è successo. Da studiare, così. Insomma. Gli metterai ancora in quarantena poi, poveri. Anche se non servirà. E dal punto di vista della resilienza mentale hanno reagito tutti bene. Noi abbiamo fatto sempre, abbiamo mantenuto anche sempre degli appuntamenti, sia di formazione, cioè abbiamo fatto proprio della formazione agli nostri atleti di vari argomenti, dall'allenamento mentale al recupero con l'automassaggio, a delle informazioni riguardo i nostri fisioterapisti che hanno fatto tutte delle lezioni riguardo proprio l'uso del foam roll, per esempio. E quindi queste call che abbiamo fatto a cadenza più o meno ogni 6-7 giorni hanno mantenuto vivo l'interesse, poi mantenuto proprio alta la motivazione. Ho visto poco calo motivazionale, nonostante, ripeto, mai qua in Lombardia siamo in lockdown da fine febbraio. Sì. Fabio, infatti noi dove siamo rimasti? Diciamo che siamo in tre condizioni diverse, no? Ci siamo fermati 2 mesi fa, come ho fatto io, abbiamo fatto degli esercizi a casa, come ho fatto io, abbiamo fatto della bici o dei rulli, come ha fatto, insomma, Francesca a casa, e poi c'è una quarta versione che è unica, diciamo, nel panorama italiano, che è Ivana, che ha corso lungo il percorso del suo garage condominiale e ha continuato per questo a correre. E ora come ripartiamo, anche considerando queste, insomma, variabili? Hai fatto una perfetta sintesi, no? Ci sono varie, non partiamo più da una condizione unica per tutti, no? E quindi non possiamo dire da domani apriamo le gabbie e cominciamo a correre finché ne abbiamo, anche se forse questo sarebbe l'istinto, no? L'istinto che ognuno di noi ha, soprattutto dopo un periodo così lungo e soprattutto mai accaduto prima di reclusione forzata, no? E quindi il consiglio è proprio di fare un'analisi dettagliata di quello che sono riuscito a fare. Se non ho fatto nulla, devo veramente riprendere camminando, cioè avendo la possibilità di camminare. Se non ho fatto proprio nulla, cioè non sono riuscito in 2 mesi a correre, perché non ho il tapis roulant, perché non me la sentivo, perché non avevo lo spazio, perché molti sono stati reclusi in appartamenti veramente... Non tutti hanno in logica i tuoi. E quindi il consiglio è riprendere a muoversi camminando, magari camminando velocemente, e poi fare quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio, cioè l'alternanza cammino-corsa. Penso che per questa tipologia sia questo il consiglio. Per quelli che invece hanno fatto qualcosa, cioè si sono mantenuti un po' attivi facendo il tapis roulant, ma con intelligenza, non abusandone, perché conosco di alcuni che si sono fatti prendere da questi videogiochi del tapis roulant, sono delle piattaforme che ci stimolano come nel ciclismo, no? E l'ambiente come se corressi all'aperto, e quindi ho proprio un'ambientazione da videogioco veramente reale, e si sono fatti prendere e hanno corso anche 70, 80, 100 km a settimana in questo modo qua, quindi non c'è solo Ana che corre, non c'è solo il garage. Quindi, allora, se invece ho fatto il tapis roulant, come, ecco, prendiamo Francesca, che sapendo cosa ha fatto, io ho seguito alla lettera quello che mi hai detto tu. Gliel'ho suggerito io, lei correva 3 volte a settimana sul tapis roulant, 45-50 minuti. Ecco, per questa tipologia qua, il consiglio è: quando esco sulla terra, perché lì comincerò a correre sulla terra, devo fare un altro adattamento, perché quando corro sul tapis roulant, la differenza sostanziale di quando corro sull'asfalto, sulla terra, è che cambia l'impulso e che cambia il ritorno elastico. Che sul tapis roulant io questa componente elastica, che è la peculiarità della corsa, la faccio poco, perché in fondo il tapis roulant scorrendo non mi permette di spingere completamente. Posso ovviare un po' a questo mettendo un po' di inclinazione. Quindi il consiglio, quando andrò a correre domani sulla terra, è quindi di stare attenti, perché si è visto che la possibilità di un infortunio, soprattutto a tendine d'Achille, è molto elevata. Ci sono degli studi fatti nell'NBA. Prima di questo lockdown l'avevano fatto gli atleti dell'NBA, perché gli atleti dell'NBA un po' di anni fa ebbero un problema contrattuale, per cui per tanto tempo non si allenarono per questo lockdown fatto dall'associazione giocatori. Poi quando ripresero, ebbero una quantità di infortuni veramente significativa, proprio per questa mancanza ai tendini. Questa mancanza gli aveva portato una difficoltà quindi a riprendere in sicurezza. Quindi per ovviare questo, il consiglio è anche qui all'inizio evitare di fare delle attività troppo intense e troppo lunghe, quindi permettere gradualmente ai tendini di riprendere la loro funzione, che è quella di avere la trasformazione dell'energia elastica tipica dall'impulso del contatto al suolo, e quindi fare degli allenamenti progressivi, cioè anche non partire con 2 ore di corsa a tutta. O con le ripetute, diciamo. O con le ripetute. Quindi anche qua la parola d'ordine è progressività, attenzione a evitare attività troppo intense e troppo corte. E quindi avere il coraggio all'inizio, magari il primo giorno siamo talmente desiderosi di correre, va bene, ma come in tutte le cose è la cronicità di fare sempre un'azione di quel tipo ci porta all'infortunio. Quindi se il primo giorno corro, ma poi per 5 giorni continuo a correre a tutta, sicuramente mi farò male. Mi chiedevo, Fabio, una cosa, no? Cioè, in questi 2 mesi c'era un po' la paura, no? Immagino anche dei tuoi atleti, di perdere un po' la forma, quindi insomma si sono dati da fare, si sono allenati, eccetera. Adesso appunto da domani si ricomincia a correre fuori, così, però non ci sono comunque gare, quindi obiettivi a breve termine. Quindi come fanno a mantenere comunque alta lo stesso la motivazione? Perché una cosa è quando sei a casa, quindi hai paura di perdere la forma, però adesso si esce fuori e dici ok, adesso però voglio fare, no? Hai centrato il problema, anche perché come ben sappiamo calendario agonistico non esiste, sia per gli atleti di alto livello, hanno annullato tutto praticamente nel calendario della Coppa del Mondo e di triathlon, hanno annullato anche i campionati del mondo, tutte le coppe del mondo, tutto. Il calendario italiano è sospeso fino a luglio e quindi le gare di Ironman le stanno annullando tutte. E parlandoci in maniera estremamente pragmatica, non so quale organizzatore riuscirà anche a rispettare le regole che verranno date sul distanziamento sociale. Infatti. E quindi è un problema quello di non avere, come tutti gli atleti, un obiettivo, no? Io dico sempre, dobbiamo porci un obiettivo, l'obiettivo agonistico non c'è, in questo momento non c'è, però io anche lì sopperisco con questo, abbiamo un obiettivo prioritario che è di stare bene e di rimanere fit. Dico quindi ai miei atleti, l'obiettivo è tenere alti i livelli di fitness e tenere il peso controllato. E il peso controllato lo fai con l'allenamento e con l'alimentazione. E quindi qui ci aiuta Francesca sull'alimentazione. E ecco, infatti. L'obiettivo quindi è rimanere con una condizione atletica di base e con una condizione muscolare alta, in modo tale che appena si hanno delle sicurezze per riguardo al calendario agonistico, basta fare un lavoro specifico, specifico quindi di riadattamento all'intensità e al gesto di gara, e in poco tempo sono convinto si riesca a essere competitivi. E questo vale sia per l'atleta di alto livello che per Francesca, usiamo sempre Francesca come nostro esempio. Come parametro, sì. Della persona che fa attività fisica facendo anche l'attività agonistica, ma per piacere, proprio il vero amatore. Quello che e anche tu sei già un po' più ossessionato, Silvio, con la scusa, io cosa sono? Io sono un amatore. No. Sei una sognatrice. Tu utilizzi la corsa proprio per rendere solidi e concreti i tuoi sogni. Questo mi piace. Francesca, in questo periodo secondo me ci siamo dati tutti da fare a fare torte, pane, insomma almeno io veramente ho fatto una quantità di ciambelle crostate che non ho mai fatto in tutta la mia vita, e quindi si mangia sicuramente di più, però ovviamente ci si muove anche un pochino meno, no? E cosa facciamo adesso? Insomma, cosa succede? Sicuramente avremo acquistato un po' di chili. Io sì, ne ho presi 2, quindi Sono la prova vivente. Allora, in realtà, anche in questo caso il mondo si divide in due. Qui ci sono diverse condizioni. I primi dati iniziano a emergere e sono interessanti, nel senso che c'è stata una parte della popolazione che effettivamente ha preso, diciamo, la palla al balzo, colto l'occasione di questo lockdown, quindi periodo anche di maggiore tranquillità, per migliorare le proprie abitudini alimentari, no? Quello di cui abbiamo parlato qualche settimana fa quando ci siamo sentiti. Sì. Quindi, quale momento migliore per dire, ok, ho più tempo, mangio a casa, faccio la spesa con più calma, mi preparo a casa i piatti, insomma, il cucino, come ha fatto Ivana, e quindi magari ne posso approfittare per perdere qualche chilo, ne approfitto per fare più attività fisica. Quindi una parte della popolazione ha fatto così. Poi, come dici tu, Ivana, c'è invece un'altra parte che ha sicuramente peggiorato il suo stile di vita, quindi maggiore sedentarietà e anche un mangiare, diciamo, un po' più sregolato, quindi più dolci, più spuntini anche durante il giorno, però quello spizzicare continuo, no, di andare magari al frigo, in cucina, anche mentre si per noia magari, per no? Noia, esattamente, quindi queste persone probabilmente hanno messo su qualche chilo. Quindi detto ciò, sicuramente questo è il momento per apportare in realtà dei cambiamenti, quindi in meglio. Chi l'ha già fatto deve mettersi in testa che dovrà continuare a farlo. Quindi, ecco, se sei riuscito a cambiare le tue abitudini, ok, tra un po' usciamo di casa, devi mantenere queste buone abitudini, no? In termini di attività fisica, anche per chi magari prima ne faceva poca e ha cominciato, quindi hai iniziato bene, hai iniziato a mangiare bene, ti senti sicuramente meglio, vai avanti così. Per tutti quelli che invece hanno preso qualche chilo e hanno peggiorato la loro condizione fisica, insomma, è il momento di mettersi in riga. Quindi ne approfittiamo col fatto che ci rimettiamo a correre, quindi ci rimettiamo in pista, e ne approfittiamo anche quindi finalmente per tornare a un'alimentazione sana. Quindi il mio primo consiglio è sempre quello comunque di tenere in casa cibi sani e di evitare, visto che la spesa continueremo a farla ancora, a pianificarla e a farla raramente, a comprare delle cose che possiamo mangiare tranquillamente, diciamo, quindi la base di frutta e verdura che dobbiamo tenere sempre in casa, i cereali integrali, carne, pesce, quindi un'ampia varietà di alimenti. Ovviamente non sto dicendo che è vietato sgarrare, anzi io sono la prima che dice: se ti piace questa torta, questo dolce, concedittelo, assolutamente sì, con equilibrio, quindi non nel continuo andare a spizzicare a tutte le ore, ecco, dal frigo o quant'altro. Però anche il fatto di aver preso coscienza, quindi di cucinare dei piatti a casa nostra, con la nostra famiglia, è qualcosa che secondo me è molto positiva ed è una buona occasione per continuare a farlo. Infatti probabilmente molte persone avranno preso anche l'abitudine di cucinare meglio, no? Hanno più tempo per loro stessi, sì. Magari riescono a fare anche esercizio e anche a cucinare meglio, quindi riescono da, esatto, questa, diciamo, quarantena anche migliorati in qualche, assolutamente, modo. Assolutamente sì. Però, più ho portato un esempio di casa mia, mio marito ha mangiato sicuramente di più e dimagrito. Perché si è allenato. Perché ha mangiato meglio. Perché si è battuto il programma, si è allenato tanto. Si è allenato di più, sicuramente perché aveva più tempo, ma ha anche mangiato meglio, ma anche piatti abbastanza elaborati, però comunque ha mangiato meglio e dimagrito, finalmente. Ecco. Francesco, mi volevo collegare a questo, no? Magari probabilmente molti riprenderanno a correre, a fare attività fisica 3-4 volte a settimana. Abbiamo parlato spesso di cosa mangiare durante, insomma, l'esercizio fisico, cosa mangiare dopo per il recupero e tutto. Invece nei giorni di riposo, quando non facciamo attività fisica, come ci dobbiamo comportare? Dunque, quando non facciamo attività fisica, ci siamo un po' abituati ai giorni di riposo, diciamo, poi tra l'altro. Ma in realtà dipende dai casi. Sicuramente dovremmo mangiare un po' di meno se non ci alleniamo, però è molto facile fare questo ragionamento. Quando mi alleno magari faccio uno spuntino prima, quindi metto dell'energia per fare l'allenamento e il recupero subito dopo, no? Quindi nei giorni in cui non mi alleno semplicemente mi mancano questi due, il prima o dopo, il durante e subito dopo l'allenamento. Il resto può anche non modificarsi più di tanto, poi dipende anche dall'allenamento che facciamo, avremo magari più fame se abbiamo fatto un allenamento molto intenso, quindi mangeremo un po' di più, questo ci sta, però di base l'alimentazione dovrebbe essere bilanciata sempre, quindi non direi mai a nessuno magari togli i carboidrati il giorno in cui non ti alleni, ecco, non do questi messaggi assolutamente. Fabio, quanto ci metteremo a riprendere la forma? Se siamo nella fase nel fenotipo 1, quello che se super allenati siamo già in forma, dobbiamo solo riprendere il gesto outdoor. Se invece siamo stati fermi, se siamo nella fenotipo pigrone, e quindi quello che ha avuto la depressione dal lockdown, ci metteremo un po', ci metteremo almeno 6-8 settimane ad avere un livello di fitness almeno come quello che avevamo prima del lockdown. Quindi le 6-8 settimane non dobbiamo avere fretta, anche perché, come abbiamo detto, non abbiamo appuntamenti agonistici, abbiamo solamente l'appuntamento con la bilancia e con la nostra coscienza. E quindi dobbiamo saperci perdonare e dobbiamo avere una bilancia particolarmente parsimoniosa. Sì, spesso non è l'unico indicatore la bilancia. Devo dire che qualcuno potrebbe essere dimagrito durante questo periodo, ma potrebbe aver perso massa muscolare stando fermo, questo diciamolo. Questo è vero. E ascolta Francesca, ma c'è qualche alimento che, insomma, stiamo facendo la primavera a casa, no? Quindi di solito si prendono magari qualche alimento per riuscire a sostenerci un po'. Quindi adesso per maggio, che cominciamo magari ad uscire un po', cos'è che possiamo magari mangiare di più che ci aiuta a sostenerci? Tu parli di stanchezza, di cambio di stagione? Sì. Beh, secondo me un'altra considerazione, adesso che mi viene, è vero, non abbiamo fatto, è che comunque noi torniamo a correre con un clima completamente diverso. Questa è una cosa importante. Ci siamo fermati in inverno e ripartiamo in estate. Esattamente, quindi troveremo molto caldo fuori. Quindi l'idratazione prima di tutto. Io penso che la prima volta che andrò a correre mi sentirò pesantissima, sarò stanchissima e quel giorno lì sarà come aver fatto la maratona. Probabilmente sarò più disidratata, anche perché adesso io spesso in casa accendo l'aria condizionata quando corro sul tapirulano o il ventilatore, quindi creo delle condizioni climatiche favorevoli. Invece magari fuori inizierà a far caldo, questo lo dobbiamo considerare. Altra cosa per combattere appunto questa stanchezza, rispettare il proprio fabbisogno energetico, mangiando bene, sempre bilanciato, ma soprattutto l'apporto di frutta e verdura che ci aiuta tanto, quindi vegetali, quelle classiche porzioni sempre consigliate, completare il pasto sempre con quella porzione di verdura, per esempio, mangiare magari 2-3 porzioni di frutta al giorno. La stagionalità è importante perché sono quelli che poi ci aiutano, perché da un punto di vista nutrizionale sono più ricchi. Distribuire le proteine, questo sono un po' ripetitiva, durante l'arco della giornata mi aiuta anche a mantenere meglio l'energia, no? Quindi se io faccio un pasto bilanciato sono più sazio a lungo, quindi mantengo il livello di sazietà più a lungo, e significa che ho anche energia che mi dura un po' più di più nel tempo. Quindi proteine, carboidrati, grassi, la verdura, eccetera. Fabio, invece, in chiusura, probabilmente alcuni si saranno abituati a fare esercizi che fino a prima non avevano mai considerato, no, a casa. Ora che riprenderemo a correre, cosa faremo di quegli esercizi? Li dobbiamo alternare un po' alla corsa? Ma secondo me la sana abitudine di avere una propria routine di preparazione atletica in generale, di prevenzione, noi, sai, in questi anni l'abbiamo sempre suggerita. E nella situazione di lockdown sicuramente è stata potenziata, perché era una delle cose che si potevano fare. Infatti, ho visto una diffusione sul web di tutorial di ginnastica che veramente dai tempi di Farrah Fawcett, quando faceva l'aerobica, non ce n'è più. Quindi prendiamo il lato buono, e quindi sappiamo che la preparazione atletica fatta a carico naturale, perché non serve avere una palestra mirabolante, servono veramente sapere gli esercizi corretti, tutta la parte di propriocezione, quindi tutti gli esercizi di controllo posturale e tutto il lavoro sull'automassaggio col foam roll, o quelli posturali, quindi l'allungamento delle maggiori catene muscolari. Sicuramente questa routine, che bastano veramente 20-30 minuti da fare 2-3 volte a settimana, sono veramente l'assicurazione più valida contro gli infortuni, no? E quindi sappiamo che, ecco, secondo me dobbiamo portarci a casa questa parola, che è differenziazione, cioè abituarci a fare un allenamento differenziato dove non è monotematico con la corsa, ma posso inserire anche altri stimoli che non sono peggiorativi della mia prestazione, anzi sono uno spunto per poter migliorare e per poter soprattutto stare sempre più in salute, perché alla fine il nostro messaggio è sempre quello di arrivare alla finish line con il sorriso e quindi in piena consapevolezza e in piena salute. E quindi penso che la differenziazione degli stimoli di allenamento sia quello che dobbiamo portarci a casa nelle prossime settimane. Fabio, ti volevo invece chiedere anche, visto che parlavi di 6-8 settimane per tornare alla forma, insomma, che avevamo lasciato, come le gestiamo queste settimane? Cosa facciamo in queste settimane? Facciamo le prime due settimane facciamo proprio una riabitudine alla corsa outdoor e alla corsa quindi su terreno solido. Quindi dove progressivamente faccio un numero di allenamenti costante, cioè 2, 3, 4 allenamenti a settimana, dipende dal mio livello, dal livello che ho lasciato, e poi progressivamente aumento il tempo che faccio di lavoro a intensità normalmente abbastanza costante e dove curo soprattutto la cadenza, quindi la frequenza di passo più che la velocità, e sempre con una frequenza cardiaca che mi permette di respirare in maniera abbastanza agevole. Dopo queste due settimane comincio a fare dei lavori un po' sulla tecnica, e quindi posso inserire gli allunghi e le progressioni che mi permettono, dopo che ho riadattato tutta la parte soprattutto muscolare e tendinea, a riprendere una certa abitudine a fare un gesto con un impulso a terra sempre più di qualità e di reattività. E quindi faccio delle progressioni e degli allunghi. E le ultime due settimane comincio a fare dei lavori un po' più qualitativi come intensità di lavoro, e quindi con la frequenza cardiaca più alta, che posso inserire dei lavori da 2, 3, 4 minuti ad intensità più elevata, e poi dei progressivi, cioè partire da velocità blanda e finire a velocità vicina al mio limite di questo momento qui. Quindi due settimane di base, due settimane di tecnica e due settimane di ripresa di qualità. E poi da lì ripartiamo sperando, insomma, che anche le gare ripartano in qualche modo. E poi da lì ripartiamo avendo due grosse direttrici. O a quel punto lì faccio un bilancio: che cosa mi manca e che cosa vorrei fare da qui ai prossimi 10 mesi, allora magari se voglio pensare di fare una maratona e non l'ho mai fatta, lavoro molto di più sul volume di allenamento, sulla quantità di chilometri che svolgo e quindi sulle capacità di endurance. Se invece voglio fare bizzarrini su distanze più corte, allora faccio dei lavori più intensi, faccio dei lavori dove la qualità e le ripetute sono più corte, insomma. Grazie mille Fabio. Buona domenica a tutti e pronti con il pettorale, perché domani si riaprono le gare. Dei matti, sì. Aspetta Fabio, tu hai un compito oggi, mi raccomando, devi fare 20 di qualcosa, ricordati. Certo, io ho le mie scale, ormai ho fatto il solco, e quindi oggi avrò i miei 20 piani in ottemperanza al challenge che hai lanciato tu, Ivana, in queste settimane, del challenge 50. Ivana, perché siamo al dunque, no? Questa settimana, cioè oggi, correrai 20 chilometri. 20 chilometri fra poco, qualche ora, e niente, poi ho finito, perché Taubani si può correre fuori, quindi insomma, anche se fino al 28 maggio, giorno del nostro compleanno, Silvio, si può raccogliere comunque le varie donazioni attraverso la rete del dono per il Policlinico di Milano. Grazie Francesca. A presto. Grazie a voi. E noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30 alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.